A tempo di sport di Giovanni Capuano. Le è mai venuto il dubbio che le sue idee di calcio ad altissimi livelli siano un po' superate? E io quando vedo giocare con le mie idee, allora posso dire che sono superato, ma ripeto, oggi non ho visto poco di quello che proviamo, di quello che ci allenamo, di quello che facciamo. Non so, la Juventus forse crea tanto timore che non riusciamo a esprimerci in questo momento. La voce di Zeman è ancora più i suoi occhi, la maschera impietrita ieri sera dopo aver visto sbriciolarsi la Roma davanti all'odiata Juventus. Forse Zeman sapeva che da oggi si sarebbe aperto il processo alle sue scelte, alle sue idee, processo che per la prima volta, dopo gli entusiasmi estivi, arriva a mettere in discussione lo stesso senso della presenza di Zeman sulla panchina della Roma. Roma che oggi ha gli stessi punti di quella che un anno fa era guidata da Luis Enrique. Buon pomeriggio agli amici di A Tempo di Sport, in studio Giovanni Capuano, in redazione Giorgio De Luca, in regia Valeria Bernardi. Siamo nei minuti finali delle gare del pomeriggio e allora rapidamente il riepilogo dei risultati. C'è il Torino che sta vincendo 4-1 a Bergamo contro l'Atalanta, Atalanta che era passata in vantaggio con Dennis al 28esimo, poi Bianchi su rigore e nella ripresa Gazzi, Stevanovic e D'Ambrosio, e proprio in questo istante siamo alla mezz'ora il 5-1 ancora di Rolando Bianchi, poi 3-0 del Bologna sul Catania, Guarente e doppietta di Gilardino, c'è il Pescara che sta vincendo 1-0 a Cagliari, gol di Terlizzi all'inizio ripresa, Lazio 2-0 sul Siena, Ederson e Ledesma su calcio di rigore, e poi Palermo-Chievo 2-1 doppietta di Miccoli, in mezzo il pareggio direttamente da calcio d'angolo di Marco Rigoni, e poi c'è il Napoli che vince a Genova contro la Sampdoria, decide fin qui una rete su rigore di Cavani al 22esimo del secondo tempo. Però di questa partita parleremo tanto perché ci sono diversi episodi, c'è l'espulsione di Mazzarri, c'è il rigore che fin qui la decide, che fa discutere, forse non c'era, intanto c'è anche il gol del 3-1 segnato da Giorgi per il Palermo sul Chievo. Io però saluto e ringrazio Aldo Serena, buon pomeriggio Aldo. Buon pomeriggio a tutti voi. Aldo Serena che ieri era a Torino per Mediaset Premium per Juventus-Roma, perché noi partiamo da qui e intanto vi aggiorniamo anche su come finiscono le partite di questo pomeriggio. Io ricordo anche i contatti per intervenire in diretta 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete anche scriverci sulla pagina Facebook che è attivissima A Tempo di Sport, e dove lo avete visto c'è anche annunciato che nel prosieguo questo pomeriggio della trasmissione avremo in diretta sia Roberto Donadoni che il mister della Nazionale di Ciclismo Paolo Bettini, quindi mandateci le vostre domande e poi potete scriverci anche su Twitter @CapuanoGio. Aldo Serena, oggi il titolo del Corriere dello Sport, Zeman ora basta, io direi che è significativo di quella che oggi è la temperatura a Roma. Ieri abbiamo visto tutti una Roma indifendibile e non solo per certi errori individuali, sei d'accordo? È una Roma a metà del guado, non hanno ancora, a mio avviso, assimilato i concetti zemaniani, i suoi giocatori, con qualche ambiguità. Osvaldo non è un esterno, Totti dopo qualche minuto si è posizionato come centravanti ed Osvaldo non è certo un esterno di Zeman. A metà campo, devo dire che devo essere in una posizione decentrata da interno e non davanti alla difesa, è limitato nel suo raggio d'azione. Quindi io penso che qualche accorgimento e giocatori che hanno bisogno di assimilare bene quelli che sono i dettami del proprio tecnico. Sì, hai sentito prima Zeman, era una partita che era stata caricata di tanti significati, anche extra calcistici, anche extra sportivi, però sentirlo dire con un filo di voce che le sue idee non sono state applicate, e comunque siamo a fine settembre, fa abbastanza impressione, perché Zeman è un allenatore che solitamente conquista nella testa il suo gruppo, il suo spogliatoio, i suoi giocatori. Evidentemente questa operazione alla Roma in questo ritorno non gli sta riuscendo. Intanto ti segnalo e segnalo agli amici da casa il raddoppio del Pescara con Weiss, 31esimo del secondo tempo, e la tripletta di Miccoli per il 4-1 del Palermo sul Chievo, quindi Palermo 4, Chievo 1, 38esimo. Aldo? Sì, io penso che anche lui sia sorpreso da questo fatto, solitamente riesce subito a dare un'impronta alle proprie squadre, naturalmente con delle difficoltà sicuramente, perché sono metodi di lavoro molto duri, sono concetti anche diversi dai solitamente gli allenatori, e quindi sorprende il fatto che ormai siamo ad ottobre e la Roma non abbia ancora ben assimilato, anche perché ci sono c'è in campo un giocatore che è il capitano, che dovrebbe fare, a mio avviso, da trade union fra i suoi compagni e il tecnico, che è Totti. E che sta forse mancando, nel senso che noi abbiamo visto delle belle partite di Totti, anche l'ultima, non certo ieri sera, poi Zeman l'ha tolto, ha detto perché a quel punto tanto valeva risparmiargli l'ultima mezz'ora di fatica, però è un Totti che sembra più che altro impegnato a ragionare su se stesso, a capire qual è il ruolo tattico che Zeman gli ha disegnato, a cercare di trovare uno spazio in una squadra che è molto giovane e si permette poi il lusso di schierare Totti, che giovane non è, che forse a questi ritmi fa fatica, lo sa, e mi sembra un Totti molto concentrato a cercare di poter mantenere il suo posto. Beh, che si sia applicato, basta guardarlo, insomma, mi sembra con sotto profilo atletico che sia un Totti diverso dagli anni scorsi, dimagrito, ha cercato di rimanere in linea di galleggiamento con i carichi di lavoro notevoli di questa preparazione. Io questo concetto di Zeman tattico lo vedo come centravanti, non lo vedo come esterno, quindi si dovrà confrontare con Osvaldo, che è di fatto un centravanti anche lui. Sì, hai l'impressione però che Zeman sia disponibile a spostarlo, perché lui continua a ripetere che Totti deve fare l'esterno, che deve farlo perché l'ha fatto benissimo quando l'ha conosciuto, ma stiamo parlando di 13 anni fa, e almeno fin qui non ha dato l'idea di spostarsi da questa posizione il tecnico. Beh, Totti ci può mettere tutta la buona volontà, ma è un Totti diverso da quello conosciuto tanti anni fa da Zeman, è un Totti che ha oramai un'età per la quale è anche comprensibile che la rapidità, la velocità delle gambe, non certo di pensiero, e la tecnica, quelle sono rimaste, ma devo dire che non può effettuare un lavoro così faticoso, così stancante, scatti ripetuti, tagli di 30-40 metri e poi rientrare nella posizione. Io penso che lui ci metta tutta la buona volontà, ma non possa più fare quel tipo di gioco. Intanto Zeman non è più un simbolo da non discutere a Roma. Io ti leggo una sintesi di cosa ci è arrivato sulla nostra pagina Facebook a Tempo di Sport nelle ore che hanno seguito la partita di ieri sera di Torino. Sono soprattutto tifosi della Roma. C'è chi dice, come Matteo, Zeman non si discute, deve restare a Roma vita. Però c'è anche chi scrive: io credo di essere l'unico tifoso giallorosso cui Zeman non è mai piaciuto, perché non è sufficiente divertirsi. E poi crediamo che Zeman oggi dovrà parlare di meno, perché deve concentrarsi di più su quello che è il lavoro sul campo. O ancora Attilio: fanno più pena di Zeman i suoi sostenitori, perché pensano sia bello prendere gol, arrivare all'ottavo posto. Dove può arrivare questa Roma secondo te? Ma io, ha dei giocatori interessanti, è ancora un gruppo da plasmare. Io penso che la società deve essere forte adesso, è andata in maniera diretta quest'estate su Zeman ed ora deve sostenerlo in maniera vigorosa, deve cercare di fare capire anche ai propri giocatori che questo è l'allenatore col quale la Roma dovrà andare avanti. Io penso che il lavoro di Zeman potrà vedersi, anzi ne sono sicuro, se avrà il tempo per poterlo fare. Il mix di giocatori, di giovani e meno giovani, mi sembra anche giusto. Cioè, sono delle difficoltà, ma ecco, io non sarei così negativo in assoluto. C'è bisogno di tempo, probabilmente adesso Zeman ne ha bisogno di più rispetto ad altre esperienze, dico Pescara, ma dico anche, non so, quelle precedenti, Lazio, Lecce. E quindi la società deve sostenerlo e i giocatori devono crederci. Allora, come dobbiamo interpretare queste parole del direttore sportivo Sabatini, che ti faccio ascoltare? Abbiamo fatto delle scelte chiare, circostanziate, poi dopo ci dobbiamo interrogare magari su anche alcune altre scelte che abbiamo fatto, che forse non tutte felici o forse abbiamo sopravvalutato qualcuno. Ma a chi si riferisce in particolare? Mi riferisco a alcuni calciatori, ma non tanto per il loro valore intrinseco quanto per la capacità di interpretare queste partite. Gli dobbiamo dar tempo, gliene abbiamo dato, ce lo siamo dato, e adesso è il momento di scuotersi un pochettino, di affrontare partite, queste partite soprattutto, con un'altra mentalità, con un'altra voglia, con un altro furore. Insomma, dire che forse è stato sopravvalutato qualcuno in sede di mercato, Aldo Serena, non è un buon punto di partenza, anche se dal punto di vista di Sabatini è una missione abbastanza onesta, che se non tutto funziona può non essere responsabilità solo dell'allenatore. Sì, beh, è una buona autocritica, però ecco, questo gli fa lode, ma ieri io penso che qualsiasi squadra del campionato italiano nel primo tempo avrebbe subito una Juventus che devastante. Era devastante. Allora, sì, pubblicamente si possono dire anche determinate cose, è giusto quello che ha detto Sabatini e quindi ha fatto anche bene, ma bisogna anche tenere presente che ieri il primo tempo, insomma, ci fosse stata qualsiasi altra squadra, la Juventus l'avrebbe fatto molto bene. Ecco perché io penso che abbia bisogno di tempo ancora la Roma e Zeman. Voglio proprio chiudere con un giudizio sulla Juventus, vista ieri sera, una Juventus straordinaria, probabilmente aveva anche grandissime motivazioni ed è inutile stare qui a ripetere il perché. Intanto ha accorciato il risultato il Cagliari sul Pescara, calcio di rigore di Piniglia, dunque Pescara avanti 2-1 a Cagliari. Siamo vicini al 90esimo un po' ovunque, il Torino vince 5-1 a Bergamo contro l'Atalanta, 3-0 per il Bologna sul Catania, 2-1 del Pescara Cagliari, gara ancora aperta, 2-0 della Lazio contro il Siena, 4-1 con tripletta di Miccoli del Palermo sul Chievo, il Napoli vince 1-0 su rigore con Cavani a Genova contro la Sampdoria, in questo momento è affiancata alla Juventus a quota 16 in testa alla classifica. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport, perché vogliamo sapere che cosa ne pensate di questa giornata e anche di quello che è successo ieri sera, e dunque del 4-1 della Juventus sulla Roma di Zeman e del pareggio del Brodino che ha preso il Milan a Parma 1-1, e ne parleremo in diretta anche con Roberto Donadoni. Per chiudere, Aldo Serena, Juventus davvero devastante, mi incuriosisce capire quali sono da oggi le gerarchie dell'attacco, perché abbiamo visto che Conte è partito con Giovinco, poi ha inserito Quagliarella e gli ha risolto una partita, ieri è tornato al gol anche Matri, a parte Bendtner ho l'impressione che gli altri se la stiano davvero giocando. Sì, se la stanno giocando tutti, il punto fisso è Vucinic, Quagliarella era stato dimenticato, invece quando è stato chiamato in causa ha risposto molto bene. Io credo che non sia, ecco, tornato nei ranghi perché a Firenze non ha fatto molto bene, credo sia, lo tenga in considerazione Conte, come la rete di ieri di Matri può essere importante per lui. Matri non è stato splendente, però ha fatto un buon lavoro ieri, e Giovinco quando è entrato in pochi minuti è riuscito a fare gol. Non so, vedo Quagliarella leggermente in vantaggio sugli altri due per la titolarità contro lo Shakhtar, però faremo a vedere. Quello che è certo è che a Conte piace averli belli incazzati anche in panchina, ieri l'ha fatto un po' capire anche Filippi dello staff tecnico, mandato a parlare anche nel dopo partita. È forse la ricetta giusta quando bisogna tenere sulla corda 4-5 potenziali titolari? Sì, se sono più o meno delle stesse potenzialità può anche essere, se sono in evidente disparità, ecco, se c'è un grande campione che fa fatica a rientrare ed è tenuto fuori, non gli si viene data un'occasione di tanto in tanto, può essere difficile, insomma, recuperarlo in quel modo. Però mi sembra che Quagliarella, Matri e Giovinco siano più o meno sullo stesso piano. Sì, il top player è Vucinic. Grazie Aldo Serena. Grazie a voi. Grazie ad Aldo Serena, commentatore di Mediaset Premium, che ieri sera ha commentato in diretta la disfatta di Zeman a Torino contro la Juventus. E voi ovviamente continuate a scriverci che cosa ne pensate, ad esempio al 349-238-6666. Un amico da casa scrive: Zeman dall'idea di fregarsene della lettura della partita, come se cambiare assetto o baricentro non avessero alcun effetto sulla squadra. Ieri ha perso per questo motivo. Intanto c'è il Siena che prova a riaprire la partita, siamo già in tempo di recupero, ma ci saranno altri 2 minuti e mezzo da giocare. La rete l'ha segnata Paci, dunque Lazio 2 Siena 1, gara che si riapre. Ricordo i contatti: 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure la pagina Facebook A Tempo di Sport, o su Twitter @CapuanoGio. Dopo il GR delle 17 cominceremo con la moviola di Graziano Cesari, e attenzione perché c'è davvero tanto da dire su Sampdoria-Napoli, che fin qui è decisa da un calcio di rigore realizzato da Cavani al 22esimo del secondo tempo. Siamo in tempo di recupero. Io però saluto Roberto Ungaro. Buon pomeriggio, Roberto. Ciao. Direttore di Riders. Perché non c'è solo calcio in questo pomeriggio. Parleremo poi della presentazione del Giro 2013 con il CT della Nazionale Paolo Bettini. C'è stato però anche il Gran Premio di Aragona, che ha vinto Pedrosa per distacco davanti a Lorenzo. Sul podio un italiano, che è Dovizioso, ha deluso invece Valerossi, che è arrivato ottavo, ma si era complicato la vita subito al primo giro. Roberto. Sì, un errore, una valutazione sbagliata, un contatto con Ria, e alla fine è finito ottavo, 44 secondi di distacco, lì ha fatto un dritto, ha perso più di 10 secondi con un altro piccolo errorino. Comunque diciamo che il secondo posto di Misano non è stata la rondine che ha fatto vedere Primavera, lo si sapeva, lo avevamo detto. Ducati non ha ancora risolto i suoi problemi, ha migliorato il davanti, sente di più l'inserimento, ha fatto uno spostamento dei pesi, ma dietro non ha grip, specie in piste come quella di Aragon. Prova di forza di Dani Pedrosa. Sì, per chiudere dietro. Valentino Rossi, mi sembra che anche lui in questo weekend sia stato abbastanza nervoso e pasticcione, perché già in prova era caduto, c'è stata la polemica con i tifosi ducatisti, che io credo, opinione personale, Valentino poteva anche risparmiarsi, visto che ormai è una storia chiusa, più o meno le responsabilità, ognuno si è fatto la sua idea sul perché queste due stagioni non siano andate come dovevano andare. Mettersi a litigare con i tifosi della scuderia che si sta abbandonando non è elegantissimo, però questo è quello che penso io. Quando mancano 4 gare al termine. Ma sai, allora, i ducatisti sono una razza a parte, sono veramente fedeli al marchio, e solo loro fino ad ora hanno dimostrato di avere la forza di criticare Valentino. Mi ricordo al loro raduno quest'estate, io ho sentito dei fischi proprio, cioè non stanno a pensarci più di tanto. Loro recriminano il fatto che Valentino non ci abbia provato, cioè non si è impegnato al 100% nonostante abbia avuto delle difficoltà, dei problemi. I problemi da moto sono oggettivi, Valentino e la Ducati è un matrimonio che non è riuscito. Ok, quello che dicono è: potevi almeno provarci un po' di più, solo questo. Allora, intanto dicevamo, ha vinto Pedrosa, secondo Lorenzo, ha vinto Lorenzo perché ha perso solo 5 dei 38 punti che si portava in dote nella classifica mondiale, continua a primeggiare. L'impressione è che un podio dopo l'altro difficilmente Pedrosa potrà avvicinarsi al connazionale. Guarda, è difficile perché 4 gare al termine, quindi 100 punti a disposizione, 33 punti di vantaggio sono tanti, Orge non sbaglia, è maturato e si accontenta, vi ho visto, di un secondo posto, quando ha visto che non era in grado di tenere il passo di Dani Pedrosa, la gomma lo ha avvertito, ha perso aderenza, ha preferito concludere secondo ed è stata una scelta molto intelligente ai fini del campionato. Peccato per Misano, dove Dani Pedrosa ha buttato via sicuramente 20, forse 25 punti, però nell'economia del campionato 1-0 non per colpa sua l'ha avuto anche ad Assen, Olanda, Orge, quindi sono a pari merito in quanto a sfortuna, non è per colpa loro. Dani è partito un po', è stato un vecchio diesel, all'inizio della prima metà della stagione l'ha fatta veramente un po' rilento, e lì invece Orge ha martellato fin dall'inizio e adesso raccoglie questi frutti, alla fine se lo merita. Devo dire che la Honda ha dimostrato di essere in un crescendo, la moto è molto veloce, accelerazioni strepitose, la Yamaha deve correre ai ripari perché Orge con la sua guida pulita, efficace, va forte, però Honda in questo momento è veramente più veloce, più efficace, e con Dani Pedrosa così in palla c'è da stare attenti. Secondo me l'anno prossimo sarà sicuramente una bella stagione. Quindi non mettiamo nemmeno una pietra tombale su questo campionato, anche se è difficile. No, Bisogna sempre aspettare la fine. Il problema è sempre un agguato, una caduta, una stupidata, uno sbaglio. Cioè deve perderlo Jorge Lorenzo il campionato, perché a questo punto, anche se dovesse sempre vincere le quattro gare, Dani, Jorge è sempre comunque lì, prende punti. Non c'è Stoner, anzi, altro discorso interessante è quando Stoner rientrerà, farà gioco di squadra per Honda per aiutare Dani. Se tutti dicono di no, perché Casey è uno che preferisce pagare le penali, fa di testa sua. Devo dire che questo piace di lui, perché non è omologato, non parla in politichese, e lui le ultime gare della sua stagione vorrà sicuramente vincere. Sì, anche perché poi potrebbero essere le ultime gare della sua carriera, esatto, e quindi certamente andrà a caccia della soddisfazione di un podio, di una vittoria, difficilmente lo lascerà per il gioco di squadra. Non solo a Filippa, ma che è la chiusura a casa sua, ma secondo me anche le gare prima, se dovesse tornare. Non è l'operazione è riuscita, ma il recupero non è così veloce come si pensava, quindi speriamo, incrociamo le dita per vedere un fine campionato un po' più spettacolare, perché comunque la gara di oggi è stata abbastanza soporifera, se non per la bella bagarre di Dovizioso, compagno di squadra Cracciolo e Spis, che sono stati attaccati fino alla fine. Bravo Andrea, perché alla fine ha tirato fuori gli artigli, e gli mancano gli artigli, perché lui è uno molto ragionatore, a metodo, veloce, però non ha mai tirato fuori gli attributi, come si dice in gergo nei circuiti. Oggi l'ha fatto vedere, il sesto podio della stagione, diciamo che chiude in bellezza. Cracciolo è strepitoso vederlo, molto aggressivo, lui almeno regala qualcosa per almeno ci regala qualche emozione. Sì, perché altrimenti, ragazzi, c'è un po' di noia. Si rischia di diventare come la Formula 1, che detto agli appassionati della MotoGP è una bestemmia. Grazie a Roberto, siamo in chiusura di blocco. Grazie a Roberto Ungaro, direttore di Riders. Alla prossima. Stanno finendo le partite, è finita quella del Napoli che ha vinto 1-0 a Genova contro la Sampdoria, ma ci sarà molto da discutere. Quarto gol del Bologna contro il Catania, l'ha segnato Cone. Ha vinto anche la Lazio 2-1, virtualmente finita con vittoria la partita del Palermo contro il Chievo e quella del Torino 5-1 a Bergamo contro l'Atalanta. 800 24 00 24, il nostro numero telefonico, numero verde 349 238 6666, per i vostri messaggi, oppure su Facebook la pagina è A Tempo di Sport ed è sempre aperta, e state già scrivendo anche sugli episodi da Moviola di questa domenica, a partire dal rigore che ha deciso la sfida di Marassi tra Sampdoria e Napoli e che farà davvero discutere insieme a tutta la direzione di Tagliavento. Ma noi ne parliamo davvero tra pochissimo con Graziano Cesari, perché apriremo la nostra pagina della Moviola. Potete scriverci anche su Twitter @CapuanoGio. Buon pomeriggio Graziano. Buon pomeriggio a te. Allora, discutere, io ho usato forse un eufemismo, perché in realtà di episodi di cui parlare in Sampdoria e Napoli ne ho segnati almeno 5. Se vuoi partiamo proprio dal calcio di rigore di Cavani, che a prima vista sembrava netto, invece rivisto alla Moviola pare che il tocco di Gastaldello su Hamsik, almeno questa è la mia impressione, avvenga poco fuori dall'area di rigore. Gastaldello poi espulso anche, era già stato ammonito. Graziano. Devo dire che è proprio così, il tocco di Gastaldello avviene col piede destro, col tacco destro, al di fuori dell'area di rigore, nel momento proprio in cui il pallone è sulla linea estrema dell'area di rigore rivolta verso il centro del campo. Purtroppo in quel momento Tagliavento non ha senso dalla profondità, in quel momento l'assistente Marazzaloni non lo aiuta e va a fischiare Tagliavento un calcio di rigore che farà discutere tantissimo. Beh, questo è un calcio di rigore che non c'è, era semplicemente una punizione dal limite con un cartellino giallo, con un cartellino rosso per Gastaldello, perché era una chiara occasione da rete. Sì, c'era solo da scegliere per Tagliavento, perché Gastaldello era già ammonito, quindi poteva anche scegliere eventualmente la seconda ammonizione, ha scelto il rosso diretto. Però io voglio spezzare una lancia a favore di Tagliavento, che a me non è piaciuto, e poi vediamo anche il perché, però è anche vero che era una chiamata molto difficile a velocità normale. Sinceramente tutti abbiamo dato il rigore per sacrosanto, poi c'è voluto un fermo immagine parecchio ravvicinato. Dunque, sicuramente una chiamata difficilissima, perché l'azione si svolge nell'area opposta, c'è questo lancio improvviso, quindi un'azione di una ripartenza, contropiede, un lancio di circa 30 metri, Tagliavento deve accelerare tantissimo la corsa. Dopodiché è chiaro che diventa difficile la valutazione del punto esatto in cui c'è l'impatto tra Gastaldello e Cavani. Ripeto, l'assistente poteva essere molto più preciso. Sì, non è stato aiutato, non è stato aiutato. Abbiamo sei arbitri oramai in campo. Bravo. E non è stato aiutato. A me non è piaciuto Tagliavento, e lo dico subito, perché poi nella gestione di altri episodi, certamente meno importanti, certamente meno decisivi della partita, secondo me non ha usato il polso che serviva per questa gara. Ad esempio, io ho visto Cavani mettere le mani in faccia a Berardi, era il settimo del secondo tempo. Tu lo sai, Graziano, questa è una battaglia che noi da questi microfoni stiamo combattendo. È impossibile, dopo quello che è stato detto alla vigilia di questa stagione dai vertici arbitrali, che nemmeno il cartellino giallo sia stato tirato fuori. Sono perfettamente d'accordo, in quell'occasione meritava il giocatore del Napoli, il capocannoniere del Napoli, assolutamente il cartellino giallo. È una cosa che non va assolutamente fatta, anche perché il concetto di, lo ripetiamo per l'ennesima volta, il concetto di tolleranza zero nei confronti di chi accusa un determinato atteggiamento nei confronti di un avversario. Così come a me non è piaciuto Tagliavento, se mi permetti ti anticipo, quando c'è stato quel gomito alto di Munari che ha procurato la fuga di sangue da parte di Berami. In quel caso il regolamento è chiarissimo, bisogna ammonire il calciatore, è assolutamente vietato usare in protezione del corpo i gomiti alti. Sì, è stata una partita cattiva, una partita dura questa qui fra Sampdoria e Napoli. C'è anche un dubbio di un calcio di rigore poco prima del vantaggio del Napoli, c'è un errore difensivo, un'incomprensione tra De Santis e Cannavaro, si inserisce Eder e va giù. Va detto che Eder non ha protestato, però tu come l'hai vista? È perché lì c'è un sandwich da attaccanti, il pallone rimane fermo ed Eder cade. A quel punto era proprietario del pallone, perché aveva scopo avanzato nell'azione sia Paolo Cannavaro che De Santis. A questo punto, a mio parere, è calcio di rigore. Era la stessa impressione che ho avuto anch'io in diretta. Poi forse Eder non ha protestato e quindi in pochi hanno colto, si sono accorti, però lì c'era stato un errore. Parlano molto gli occhi di Cannavaro, che guarda immediatamente l'arbitro, guarda l'avversario, secondo me sa di averla combinata grossa, però in questo caso gli è andata bene. Però a maggior ragione la direzione di Tagliavento non è una direzione certamente impeccabile. No, assolutamente. Graziano, parliamo dell'espulsione di Mazzarri invece, perché c'è un retroscena di cui adesso vi diamo conto, che di cui sta parlando proprio in questi minuti, proprio su Mediaset, la collega Monica Vanali, che era bordocampista a Marassi. Intanto raccontiamo che cosa è successo. Siamo al 42esimo del primo tempo, c'è un'entrata bruttissima di Obiang su Inler, c'è l'ammonizione immediata da parte di Tagliavento, ci sono però subito le proteste di Mazzarri. Tagliavento corre verso l'allenatore del Napoli e lo invita ad andarsene, poi le proteste di Mazzarri proseguono e probabilmente è scappata anche qualche parolina di troppo. Il retroscena della collega di Mediaset Premium è che ad attivare Tagliavento sarebbe stato Ferrara, parlando col quarto uomo e lamentandosi per l'atteggiamento eccessivamente intimidatorio di Mazzarri. Allora, come l'hai vista? Allora, andiamo innanzitutto sul fallo. Tu hai definito questo fallo di Obiang bruttissimo, io credo che sia un fallo semplicemente da ammonizione, perché la gamba di Obiang, la gamba destra di Obiang è sempre rasente al suolo, non si alza mai. Quindi sì, sicuramente è un intervento duro ma non da rosso. Non da rosso, perfetto. Mazzarri chiedeva il cartellino giallo, Ferrara si è alzato dalla sua panchina e gli diceva sempre: ma basta lamentarsi, cosa fa questo qua, perché si deve sempre lamentare? A quel punto è intervenuto il quarto uomo, che l'ha richiamato Tagliavento. Tagliavento si è avvicinato alla posizione dove c'era Mazzarri vicino alla panchina, ma in un primo momento solamente ha raccomandato all'allenatore del Napoli di stare fermo e di stare calmo in panchina. Tant'è che Tagliavento se n'è andato verso il centro del campo nel punto in cui era venuto il contatto tra Obiang e Hill. Su sollecitazione allora del quarto uomo, in questo caso ti devo dire che il quarto uomo è stato decisivo, perché il quarto uomo ha richiamato Tagliavento e ha detto testuali parole dal labiale: buttalo fuori, buttalo fuori. Probabilmente quando Tagliavento si è allontanato da Mazzarri c'è stata un'offesa sentita dal quarto uomo. A quel punto Tagliavento si è avvicinato a Mazzarri e l'ha espulso. Esatto. Tagliavento tornava a fare il Napoli dopo la Supercoppa di Pechino, dove non era arbitro ma era giudice di porta, e tra l'altro tra i giudici di porta nemmeno quello coinvolto nei tanti episodi di quella partita. In quella partita Mazzarri però era stato espulso, era anche stato poi squalificato per una giornata, la sua squalifica cancellata a differenza di quelle di Pandev, Zuniga e di Dossena. Ci scrivono su Facebook gli amici da casa: a Mazzarri andrebbe imposto maggior rispetto verso la classe arbitrale, ma difficile che possa farlo De Laurentiis. O ancora Andrea: se io fossi un arbitro espellerei Mazzarri subito, con un'espulsione preventiva per quello che sarà sicuramente un comportamento antisportivo. Diciamo la verità, Mazzarri non ha una buona fama, anche questo pesa magari in situazioni come quella di oggi, al di là che poi dopo certamente nella seconda fase della protesta è scappata qualche parolina di troppo. Ma assolutamente pesa, come succede in tutte le cose, quando un allenatore dice quello che pensa e magari va chiaramente a infierire sulla categoria arbitrale, è chiaro che poi ci sono sempre delle situazioni di condizionamento. Però permettimi una cosa, l'eliminazione di Tagliavento, che è un raddoppio poi della partita precedente di Fiorentina-Juventus, e addirittura triplica, perché c'è stata anche una partita di 100, permetti che è stata una cosa da parte di Baschi assolutamente inadeguata. Assolutamente. Allora, c'è Mazzarri che sta per iniziare a parlare ai microfoni di Sky Sport. Allora vediamo di pescare i primi secondi di Mazzarri, poi andiamo subito al traffico e poi torniamo qui ancora con la moviola di Graziano Cesari, perché c'è tanto da dire anche sugli altri campi, oltre a celebrare la tripletta di Miccoli. Sentiamo Mazzarri. Il microfono fra loro due, perché oggi veramente si è visto che c'è stato un fallo brutto davanti alla mia panchina. L'unica colpa è che ho aperto le braccia evidenziando questo fallo che era a 3 metri da me. Tagliavento è venuto, mi ha detto se lo rifà un'altra volta la mando via, e se n'è andato. Io, se voi guardate, non ho più detto una parola, stavo con me stesso a riflettere, così, perché mi era sembrato un brutto fallo. Basta, poi è tornato indietro, probabilmente una comunicazione fra lui e il quarto uomo, mi hanno detto, ma comunque andiamo avanti, parliamo della gara è meglio. Allora, parliamo della gara che è meglio. Questa è la descrizione di Mazzarri della sua espulsione. Ancora i nostri numeri 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, per i messaggi SMS 349 238 6666. Potete scriverci anche sulla pagina Facebook A Tempo di Sport, oppure via Twitter @CapuanoGio. Siamo con Graziano Cesari per la moviola della giornata. Però sentiamo ancora una battuta di Mazzarri a Genova. Cercheremo di dare il massimo, come abbiamo fatto oggi. Poi, come ho detto dal primo giorno in cui sono arrivato a Napoli, ogni anno alla fine conta la fine, conta l'ultimo giorno, dove e poi si farà i commenti, si tireranno le sue. Studio. Questo Mazzarri, ovviamente il Napoli, Graziano, che è primo in classifica insieme alla Juventus, comincia ad accarezzare l'idea di un duello che vada fino alla fine della stagione, e io penso che fosse questo il tema a cui si riferiva Mazzarri dopo questa partita, che è una partita fondamentale, perché la Sampdoria era insieme al Napoli fino a qui la seconda forza di questo campionato. Andiamo a Bergamo per Atalanta-Torino. Cominciamo dal primo gol dell'Atalanta, o meglio dall'unico gol dell'Atalanta, che è il primo gol della partita, quello di Denis. Su passaggio di Gazzola c'è un sospetto di fuorigioco. Sospetto di fuorigioco che non c'è, perché è Ubonna che tiene la linea difensiva e quindi tiene in gioco Denis. Devo dire che in questo caso l'assistente Altomare è molto attento nella valutazione, perfettamente allineato, e proprio per pochi centimetri il giocatore centrale del Torino della Nazionale tiene in gioco il centravanti della Atalanta. Sì, qui parlavamo addirittura di millimetri, neanche centimetri. Anche avesse sbagliato sarebbe stata una chiamata praticamente impossibile. Calcio di rigore per il Torino, 1-1, 38esimo del primo tempo, cross di D'Ambrosio, c'è un braccio largo di Bonaventura, rigore o no? A rigore sicuramente sì, la distanza era tale che permetteva un altro intervento da parte di Bonaventura. È chiaro che questa mano larga che impatta il pallone dava assolutamente da punire. Colpevole il giocatore dell'Atalanta, già tenendo assumere un altro tipo di atteggiamento. E poi, per chiudere su Atalanta-Torino, c'è un contatto tra Ogbonna e Denis. Siamo proprio all'ultimo minuto del primo tempo. Per Massa non è calcio di rigore, tu come l'hai vista? Sono assolutamente d'accordo con lui, devo dire che proprio non esiste calcio di rigore. Mi sembra che l'accentuazione da parte del centravanti dell'Atalanta sia notevole e Ogbonna ha fatto un intervento assolutamente normale. Il calcio è uno sport di contatto. Intanto Bologna-Catania 4-0, c'è un gol annullato dal Miron, ma era in fuorigioco abbastanza evidente. Esatto. Siamo nel secondo tempo, sarebbe stato il gol del 2-1. C'è da rivedere invece il 2-0 del Bologna, 40esimo del primo tempo, gol realizzato da Gilardino, che era probabilmente in linea o comunque sul filo del fuorigioco con Bellucci. Ritorno proprio al discorso che abbiamo appena fatto con l'Atalanta al campo di Bergamo, ma in questo caso fuorigioco non esiste, perché Bellucci tiene per quei millimetri in gioco Gilardino, quindi un'altra chiamata difficilissima da parte dell'assistente. Complimenti, perché questi sono veramente capolavori. Oggi li promuoviamo tutti o quasi. Vediamo se se l'è cavata bene anche D'Amato con i suoi assistenti a Cagliari. Per Cagliari Pescara 1-2, do la notizia tra l'altro che a Cagliari in questo momento ci sono 200 tifosi, 200 dei 4.300 circa che oggi sono potuti entrare a Is Arenas, che stanno aspettando l'allenatore Ficcadenti all'esterno dell'impianto per contestarlo. Il Cagliari in questo momento è ultimo in classifica con solo 2 punti. Diciamo che è un test anche dal punto di vista dell'ordine pubblico per l'impianto di Cagliari, che settimana scorsa non era a norma e non poteva ospitare gare con pubblico presente. Oggi è stato riaperto per poco meno di 5.000 tifosi e adesso deve superare anche il test di una contestazione al tecnico per circa 200 tifosi. Dicevamo di Cagliari-Pescara, Graziano, c'è l'espulsione di Rossettini per secondo giallo, falcia Weiss, credo niente da dire. Niente da dire, assolutamente corretta, sia la prima ammonizione che la seconda. Rossettini è un ingesto, ingenuo, e quindi l'arbitro ha fatto bene a punirlo. E poi nel finale c'è il calcio di rigore che riapre la partita per il Cagliari, poi realizzato da Piniglia per un mani di Terlizzi. Beh, c'è questo intervento in scivolata, disperato da parte di Terlizzi, che si allarga a dismisura, quindi il suo braccio destro va ad aprire una massa corporea, veramente superiore a quella che è normale, quindi talmente evidente sul tiro di Nainggolan questo calcio di rigore che le dice prende anche cartellino giallo, giustamente. Possiamo discutere invece qualcosa su Lazio-Siena 2-1, perché sull'1-0 c'è la protesta di Mauri per un calcio di rigore che Russo non assegna. Mauri viene messo in movimento da un retropassaggio sbagliato di un giocatore del Siena, c'è l'uscita di Pegolo. A mia impressione c'è un errore da parte del direttore di gara, che addirittura va a ammonire Mauri per proteste. Però tu come l'hai vista? Allora, stiamo parlando di due episodi diversi. Sì, scusami, il retropassaggio di Vergassolo, assolutamente. Di Vergassolo, e c'è close, e quindi viene accordato. Ed è il rigore che viene accordato. Chiedo scusa, ho messo insieme gli appunti. E invece sulla prima situazione, quella che Mauri viene affondato da Pegolo, viene tutto è un passaggio di un compagno, non un retropassaggio. Esatto. E quindi viene tutto al di fuori dell'area di rigore, però sicuramente l'uscita di Pegolo è assolutamente da punizione, tant'è che Pegolo, a mio parere, andava assolutamente espulso, perché non c'era nessuno che poteva in qualche modo intervenire, quindi espulsione di Pegolo, calcio di punizione dal limite, invece in quel caso Russo, sbagliando, non segnala neanche l'infrazione e fa continuare il gioco. Sì, questo è assolutamente un errore. Ci ha chiamato Sergio da Padova all'800 24 00 24. Sergio, buon pomeriggio. Sergio da Padova, sì, prego, il suo intervento. Senta, il mio ragionamento è molto semplice, cioè se noi facciamo una fotografia in qualsiasi momento di un'area, ci si accorge che i giocatori assumono le posizioni più svariate per bilanciare il corpo, quindi dovremmo considerare molto, molto importante questa cosa, se no noi diamo come calci di rigore che non sono volontari. Cioè lei sta dicendo che ci sono troppi rigori magari su contatti che sono determinati, Graziano, questo sta dicendo il nostro amico da casa, in realtà dalle dinamiche di corsa o di posizionamento dei difensori e anche degli attaccanti all'interno dell'area di rigore. Cosa ne pensi? Attenzione, perché l'intervento in scivolata è un intervento assolutamente contestabile, perché ci sono delle dinamiche in cui i calciatori, per esempio, mettono le braccia dietro la schiena. Quindi attenzione alle dinamiche di corsa, non sono sempre dinamiche di corsa, ma certe volte sono giocate che possono influenzare un esito positivo di un pallone. Attenzione a questo, non confondiamo la dinamica di corsa o di intervento con quelli che sono interventi estremi. Sì, questo vale anche per i calci di rigore, per i falli, esatto, di mano, ad esempio. Per chiudere, tornando a Udinese-Genoa, che si è giocato a mezzogiorno e mezzo, 0-0 risultato finale, pochi gialli all'inizio, questa è la critica che facciamo a Romeo. C'è poi a inizio ripresa, al limite dell'area di rigore, un contatto fra Coda e Immobile che forse poteva essere sanzionato diversamente da Romeo. Doveva essere sanzionato direttamente da Romeo in modo assolutamente diverso. Ricordiamo che Romeo non ha fischiato fallo, non ha preso nessun tipo di provvedimento. In quel caso Coda interviene scorrettamente sia col braccio sia col corpo basso. Immobile tocca il pallone, lo manda sulla destra del difensore. A mio parere era un intervento da chiara occasione di rete, quindi era sicuramente un cartellino rosso e una punizione dal limite. Graziano, ci sentiamo domenica prossima, grazie. Grazie a voi. Intanto sentiamo Castaldello, Sky Sport. È difficile da valutare, per cui stare lì e far casino e protestare non mi sembrava giusto. È stata una decisione non facile, va bene. Una cosa che apprezzo è, finita la partita, l'arbitro ha voluto farmi i complimenti appunto per questo gesto, e penso che sia una cosa importante. Oh, sì, perché Castaldello, dopo l'azione del calcio di rigore, è andato a stringere la mano a Tagliavento e si è allontanato senza discutere né sulla concessione del calcio di rigore e nemmeno sul cartellino rosso, però questo a prescindere che il fallo fosse dentro o fuori l'area di rigore, davvero c'era poco da discutere perché si trattava di rosso diretto o al limite anche di rosso per seconda ammonizione. Io chiedo un momento di pazienza ancora a Luca da Torino, anzi no, andiamo da Luca da Torino, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Anno. Niente, io volevo dire che parto dalla considerazione, questi poveri portieri impallonati, irrogati di rigori presunti, molto scenate, sono gli unici attori deboli, diciamo, che vengono castigati così senza appello dal calcio, soprattutto italiano, e diciamo che le regole che ci sono sempre più che draconiane, sono un po' punitive secondo lei verso i portieri, soprattutto sì, con la gestione dei cartellini e dei rigori. Sì, parto da questo perché poi il calcio italiano praticamente è messo così, è messo in una situazione di... Sì, non stiamo benissimo. Luca, sentiamo Petkovic invece, che con la sua Lazio è terzo in classifica, Sky Sport. Tenere questo Siena è... per vincere questa partita senza troppe polemiche, senza troppe anche fatiche, perché abbiamo sicuramente giocato bene, creato tanto e non ci voleva questo ultimo gol. Sì, Lazio che ha rischiato alla fine di complicare una partita che aveva vinto largamente, Lazio che è terza in classifica con 12 punti alle spalle di Juventus e Napoli, questa sera può al massimo essere raggiunta dall'Inter che è a quota 9, alle 20.45 c'è il posticipo contro la Fiorentina che segue un punto a quota 8, però comunque vada questa sera la Lazio sarà la terza forza e viste le premesse d'inizio stagione possiamo dire che c'è anche da stupirsi, perché la Lazio era certamente una squadra che aveva fatto poco mercato quest'estate, sulla carta non si era rinforzata, c'era proprio l'incognita di Petkovic. Sentiamo ancora il tecnico della Lazio. Petkovic, aspetti, Matteo, proprio su questo ci sono delle immagini selezionate. Allora, intanto che Sky ragiona sulle immagini selezionate per vedere come la Lazio ha vinto questa partita, io leggo qualche messaggio che sta arrivando al 349-238-6666. Entro stasera a Ficcadenti salta perché Cellino lo caccia, state pronti. Questo è Cristiano da Cagliari, tifoso del Cagliari deluso. E poi sta facendo molto discutere, non poteva essere diversamente, l'arbitraggio di Tagliavento. Scrivono da casa: Massimo, voglio vedere se De Laurentiis, che ha vinto la partita grazie all'arbitro, avrà lo stesso coraggio di Pechino di lamentarsi tra rigori ed espulsioni. E ancora Mazzari si è fatto mandare via su un fallo a favore con ammonizione, ma dove vive? E poi su Facebook ci scrive Graziano: Mazzari deve smetterla di farsi del male da solo, faccia un salto di qualità, è un grande allenatore, non deve cadere in situazioni che danneggiano lui stesso e la squadra. Sta parlando Ferrara Barassi, Sky Sport. Di far gol la fa o sfrutta comunque l'occasione che gli si presenta, ma questo è, insomma, è caratteristica delle squadre abituate anche a soffrire, così come credo che abbia sofferto il Napoli oggi. In occasione sì, sta parlando del Napoli e sta dicendo qualcosa che dicono anche i nostri amici da casa, e cioè che nel secondo tempo, quando la Sampdoria è leggermente calata, è venuta fuori la squadra certamente più forte, una squadra spietata che alla fine ha portato a casa il risultato. Questo lo ha scritto Leo sulla nostra pagina Facebook a Tempo di Sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ancora sulla pagina Facebook a Tempo di Sport, Ferrara, credo sull'episodio del rigore. Confronto a tanti altri episodi. Studio. Sì, mi sembra che non si sia lamentato più di tanto Ferrara, sempre molto signorile. Buon pomeriggio Xavier Iacobelli, direttore di calciomercato.com. Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio amici ascoltatori da calciomercato.com. Non è stata una bella giornata per Tagliavento, Xavier, poi adesso avremo modo di parlarne, però in un flash mi sembra che, almeno da quello che ho intuito, Ferrara in maniera molto signorile non l'abbia fatta pesare, però il suo fischio ha deciso questa partita, che è una partita, io credo, cruciale, fondamentale, importantissima, sia per il campionato del Napoli che per il campionato della Samp. Sono d'accordo con te, anche perché il primo a rendersene conto è stato Mazzarri, quando ha affermato dopo l'incontro che una partita così l'anno scorso il Napoli l'avrebbe persa. Invece questa volta l'ha vinta, pur non essendo stato brillante e pur con la questione del rigore che certamente terrà banco anche nelle prossime ore. D'altra parte il salto di qualità dei partenopei era già stato registrato dall'inizio di questa stagione, l'anti-Juve sono loro, fermo restando il fatto che stasera vedremo come andrà a finire tra Inter e Fiorentina. È importante anche il ritorno della Lazio, che ha dimostrato di avere incassato le conseguenze delle due sconfitte e ha rialzato la testa in una giornata caratterizzata da molti risultati interessanti. E allora apriamo la prima pagina di A Tempo di Sport. È il Napoli la vera anti-Juventus, vince a Genova su rigore dopo aver sofferto polemiche per la direzione di gara di Tagliavento. Non c'era il fallo di Gastaldello su Hamsik che ha deciso l'incontro, e pensate che Tagliavento ritrovava gli azzurri dopo la Supercoppa di Pechino con tutte le polemiche, espulso Mazzarri per proteste. E poi la Lazio, terza forza del campionato in attesa della sfida tra Inter e Fiorentina, applausi per la tripletta di Miccoli a Palermo. Pensate che con Sannino Miccoli non giocava e oggi ha battuto quasi da solo il Chievo. Panchina rovente a Cagliari, sotto gli occhi di Cellino Ficcadenti ha perso contro il Pescara, in 200 fuori da Is Arenas lo stanno aspettando. E infine, tornando a ieri sera, Roma ha aperto il processo a Zeman dopo il crollo a Torino. La squadra ha gli stessi punti di un anno fa ma offre meno certezze. Zeman accusa i giocatori di non mettere in pratica le sue idee. De Rossi se la prende con chi parlava di scudetto. Insomma, cosa sta succedendo alla Roma, dove il boemo non è più intoccabile? Questa è la nostra prima pagina. Xavier, Napoli che certamente oggi ha legittimato, al di là dell'episodio, comunque il ruolo di anti-Juventus, perché è vero, lo diceva anche Ferrara, lo dicono alcuni nostri amici da casa, che comunque nel secondo tempo la partita era cambiata. Sì, sono d'accordo con te. Una grande squadra si vede anche quando è capace di essere cinica o pragmatica, scegliamo l'aggettivo che riteniamo più opportuno. La vittoria sulla Samp, che rammentiamolo, era imbattuta sino ad oggi ed era stata protagonista di un grande avvio di campionato. Il giudizio sulla brillantezza della gestione Ferrara non viene assolutamente inficiato da questo passo falso interno. Credo che legittimi le ambizioni tricolori di un Napoli che ha in questo momento il più forte attaccante del mondo, non ci sono dubbi. Cavani ha realizzato il gol numero 73 in 102 partite con la maglia partenopea. È un uomo decisivo anche nelle circostanze in cui la squadra o non lo supporta o lo supporta poco, e questo è un valore aggiunto incommensurabile. Sì, resta comunque un grande applauso alla Sampdoria, ce lo scrivono anche da casa 349-238-6666. Al di là di tutto è stata anche oggi una squadra grande e giovane, e pensate che era senza Maxi Lopez, era senza Pozzi, aveva grossi problemi di formazione. Ride Ferrara ai microfoni di Sky Sport in questo momento, certamente ha ragione Xavier. Ti chiedo se a questo punto possiamo dire di aver trovato un campionato per la corsa al vertice. Temevamo, visto lo strapotere della Juventus, almeno per questa stagione, di averlo perso. Dal punto di vista delle attese, dello spettacolo, il fatto che il Napoli riesca a essere all'altezza è certamente una buona notizia. Non solo il Napoli, io credo che debba essere evidenziato anche il merito della Lazio, perché Petkovic era partito benissimo sia in campionato sia in Europa League, poi ha pagato dazio al primo effetto Europa League stesso, perché a White Hart Lane contro il Tottenham aveva colto quel brillante pareggio schierando la formazione titolare, perché aveva operato dei cambi che non avevano ripagato in campionato. Aggiungerei anche una fra Inter e Fiorentina. La partita di questa sera si annuncia molto bella a San Siro, perché ci sono intanto due fra i tecnici più giovani, il più giovane della Serie A, Stramaccioni, che di anni ha 36, e Montella, che di anni ha soltanto 38, della prima stagione sulla panchina viola. Tra l'altro sono due figliocci di Bruno Conti, sì, che li ha cresciuti e lanciati nel settore giovanile della Roma. Beh, anche questo è un intreccio particolare, perché tu lo sai, in questa settimana ci sono state le parole di Giovanni Coboli-Gigli che hanno fatto molto discutere, però forse nella parte in cui diceva la Roma aveva già in casa il futuro, e tra l'altro con un allenatore che fa giocare molto bene le sue squadre, le fa divertire, e stiamo parlando di Montella, e poteva puntare sulla Roma, beh, forse al di là di qualche ruvidezza dal punto di vista lessicale, questa lettura da parte di Coboli-Gigli non è così sbagliata. Bisogna avere coraggio. Sono d'accordo con te. Non mi è piaciuto per niente il riferimento all'età di Zeman, peraltro formulato da un signore che il 4 gennaio compirà 68 anni e non risulta essersi, grazie a Dio per lui, ritirato dall'attività con le sue molteplici funzioni professionali che l'ex presidente della Juve ricopre. Quindi secondo me ho trovato questo, tra l'altro, una sortita improvvida e totalmente inaspettata, considerata l'eleganza e lo stile che hanno sempre contraddistinto Coboligidi. Ciò detto, sono d'accordo con te quando invece il riferimento dell'ex numero uno bianconero va a Stramaccioni e a Montella, che, come hai ricordato, sono cresciuti in quel formidabile serbatoio di talenti che è il settore giovanile della Roma. Ecco, io credo che il problema attuale della Roma risieda proprio nel fatto che Zeman, che è abituato a insegnare il proprio calcio a giocatori giovani che lo seguono, Pescara, Docet, non abbia trovato la stessa disponibilità, perlomeno in queste prime sei giornate di campionato, lasciando stare poi la vittoria a tavolino ottenuta sul Cagliari la settimana scorsa. E il problema è che o la squadra lo segue e allora la Roma cambia passo, ma se la squadra non lo segue la situazione diventa problematica. La partita con l'Atalanta domenica prossima diventa già, non dico un'ultima spiaggia perché è un'espressione abusata, però una partita determinante. E però quel paragone con gli 8 punti di Luis Enrique un anno fa, ma con più del doppio dei gol presi, è un paragone che pesa, io credo, a Roma, perché poi è vero che Luis Enrique aveva conquistato gran parte dell'ambiente, però è anche vero che arrivati alla fine della stagione, fuori anche dall'Europa League, l'annata di Luis Enrique era stata catalogata, mandata agli archivi dall'ambiente romano come un'annata fallimentare. Ritrovarsi un po' al punto di partenza certamente è in questo momento un'etichetta che pesa su Zeman, che non è più intoccabile. Per fare una battuta, poi ci fermiamo un istante per sentire Ventura che sta iniziando a parlare su Sky Sport, si potrebbe quasi dire che De Rossi, Osvaldo, Destro e Totti non valgono quello che l'anno scorso sono valsi Verratti, Insigne e Immobile, che sono i ragazzi che hanno fatto grande Zeman a Palermo e viceversa ne hanno ricevuto molto. Xavier? Ah, penso che la tua fotografia sia assolutamente precisa, le cose stanno esattamente così. Credo che mai come in questo momento debbano essere Totti e De Rossi a prendere per mano la Roma e a scuoterla dallo stato confusionale in cui la formazione giallorossa è precipitata. Del resto Zeman ci ha messo del suo abbondantemente ieri sera, non puoi presentarti in casa della Juventus che ha inanellato il 45esimo risultato utile consecutivo in campionato, con una difesa altissima, con attaccanti che non tornano ad aiutare il centrocampo e un centrocampo sistematicamente scavalcato dalla furia, oserei dire incontenibile, di una Juventus che in questo momento allinea il più forte centrocampista del mondo che risponde al nome di Marchisio. Sentiamo Ventura, Sky Sport, dopo la vittoria a Bergamo. Sono sempre ancora, dobbiamo diventare coscienti del campionato che stiamo facendo, abbiamo sperperato una miriade di palloni, quindi al di là del valore poi dell'Atalanta abbiamo rischiato più di una volta. Secondo tempo direi che abbiamo ripreso a giocare, abbiamo costruito molto, alla fine abbiamo finito, eravamo padroni del campo. Direi che al di là del risultato, che è grosso nei numeri, credo che sia una vittoria meritata per quello che abbiamo fatto. Abbiamo avuto, perché oltre ai 5 gol abbiamo avuto tante altre situazioni, quindi devo fare i complimenti. È vero che abbiamo fatto 5 gol, prima ne avevamo fatti 4, però è altrettanto vero che mercoledì avevamo preso 3 pali a portiere battuto e tante altre situazioni, quindi devo fare i complimenti alla squadra che da quando è iniziato il campionato ha cercato sempre di esportare un'immagine della squadra che fa calcio. E zitto zitto, intanto il Torino che fa calcio di Ventura è a quota 8 in classifica, come ricordava, mercoledì è stato fermato da 3 pali contro l'Udinese, altrimenti sarebbe la quarta forza di questo campionato. Xavier Iacobelli, direttore di calciomercato.com, per chiudere ringraziandoti, ci chiede Paolo proprio su Twitter: chi salta prima tra Ficcadenti, Zeman, Stramaccioni o Colantuono? No, io direi che Colantuono lo escluderei nella maniera più assoluta, considerato il tipo di rapporto instaurato con l'Atalanta. È evidente che questa sia una delle sconfitte più pesanti della sua carriera, ma conoscendo il rapporto che lo lega al club tarantino e soprattutto quanto di buono Colantuono ha fatto, che non dobbiamo dimenticare che ha totalizzato il record di 52 punti sul campo nei 105 anni di storia dell'Atalanta nella passata stagione. Io oggi ho seguito dal vivo la partita di Bergamo e devo dirti che se fosse finito il primo tempo sul 3-0 per i nerazzurri o sul 3-1, nonostante il rigore ineccepibile accordato al Granata, non ci sarebbe stato nulla da ridire, perché il numero di palle gol e 2 traverse colpite legittimavano la superiorità dell'Atalanta. Ma il calcio è tremendo, quando commetti questi errori pur contando 7 indisponibili e durante la partita ti si infortuna anche Manfredini, che è il perno della formazione di Colantuono in difesa, Il Toro è stato implacabile, ho visto un gran bel Toro nel secondo tempo, la mano di Ventura si vede, è una gran bella squadra che gioca a calcio, perché secondo me oggi a Bergamo è stata teatro di una splendida partita di calcio e il Toro ha, assolutamente, in maniera, divertente. In maniera micidiale il Toro ha castigato gli errori dell'Atalanta e penso che l'Atalanta rifletterà molto su questa partita. Devo anche dirti, Giovanni, che ho apprezzato, e credo l'abbiano apprezzato anche gli stessi giocatori atalantini, l'atteggiamento del pubblico. Sono usciti fra gli applausi e gli incitamenti della curva nord, nonché degli altri tifosi in curva sud, e di fronte all'1-5 patito in casa. Sì, non sempre succede, non sta succedendo ad esempio a Cagliari, proprio in questi minuti. Poi cercheremo anche di fare cronaca e di capire cos'è il destino di Ficcadenti, che oggi ha perso in casa contro il Pescara, è ultimo in classifica ed è contestato dai tifosi, quei pochi che oggi erano stati ammessi a Isa Arenas, che una settimana fa era invece chiuso per questioni di sicurezza. Grazie a Xavier Iacobelli, grazie per essere stato con noi. È stato un piacere, grazie a voi, buona serata da calciomercato.com. Allora, è in lista Vito da Cagliari, che ha chiamato l'800240024. Prima però apriamo ancora la prima pagina di A Tempo di Sport. Una prima pagina che dice che il Napoli, l'anti-Juventus, ha vinto a Genova su rigore dopo aver sofferto. Ci sono però grosse polemiche per la direzione di gara di Tagliavento, soprattutto non c'era il calcio di rigore che ha deciso la partita. Rigore di Gastaldello su Hamsik, espulso Mazzarri per proteste. E poi la Lazio, terza forza del campionato, in attesa della sfida questa sera tra Inter e Fiorentina. Applausi per la tripletta di Miccoli, contestazione a Cagliari per Ficcadenti. In 200 lo stanno aspettando fuori dallo stadio di Isa Arenas. E per chiudere il processo che si è aperto a Roma su Zeman dopo la disfatta di Torino, botta e risposta tra il tecnico e i giocatori. Zeman dice: non mettono in pratica le mie idee. De Rossi ha fatto male alla squadra. Chi alla vigilia della stagione ha parlato di possibilità scudetto, insomma, che cosa succede a Roma e soprattutto qual è il futuro di Zeman, che non è più intoccabile. Saluto Luca Calamai dalla Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio Luca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Prendiamo Vito da Cagliari, Luca, perché sta davvero aspettando con pazienza da qualche minuto. Vito, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, salve. Prego. Niente, io ho chiamato per la questione di Mazzarri. Volevo stigmatizzare un comportamento che non è da oggi di questo allenatore, che è allenatore di una grande squadra e comunque ogni fine partita, post partita, sempre qualcosa da recriminare nel gruppo della classe arbitrale, piuttosto che degli avversari, senza invece esaltare o comunque parlare della prestazione della propria squadra. Questo non lo trovo adatto. Non le è piaciuto, insomma, neanche oggi? No, neanche oggi. Sul scaldo di animi, per il calcio di oggi non ce n'è veramente bisogno. Grazie Vito. Luca, sottoscrivi? Luca Calamai, sottoscrivi, Gazzetta dello Sport. Sì, insomma, Mazzarri lo conosciamo, cioè non è che oggi abbia fatto qualcosa di peggio rispetto ad altri. Lui vive la partita in questa maniera. Allora stava spiegando proprio in conferenza stampa che c'è stato un equivoco tra il quarto uomo e l'arbitro nelle comunicazioni e che quindi la sua espulsione sarebbe frutto di un equivoco. Certo è che ha fatto uno scatto dopo l'intervento di Bianghe che era oggettivamente sbagliato. Sì, a me non piace neanche tanto l'espulsione chiamata, se la ricostruzione è quella corretta, e cioè che poi in realtà sia stato Ferrara a lamentarsi ulteriormente con il quarto uomo per l'atteggiamento di Mazzarri e in un certo senso a chiamare il provvedimento tecnico dell'espulsione per l'allenatore avversario. Poteva evitarsela anche lui, ma questo è un giudizio personale, Luca. Sì, no, dopodiché io ti devo dire la verità che della partita di oggi l'espulsione di Mazzarri insomma è un aspetto, ma sicuramente non l'aspetto più importante. Devo dire che oggi emerge un Napoli cinico e quindi un Napoli che ha imparato come bisogna essere per vincere campionati. Un Napoli grande squadra. Da cattivi, un'occasione creata dalla grande classe di uno dei suoi campioni, in questo caso Hamsik, rigore, gol e tutta a casa, no? Poi alla fine sommato la Sampdoria non ha demeritato, anzi ha dato la sensazione di fare una grande partita, poi però vai a vedere e sostanzialmente non ha avuto una sola occasione da gol, quindi vuol dire che Napoli ha trovato questo equilibrio che è l'equilibrio delle squadre che vincono campionati. E poi ti dico, però la Sampdoria è una squadra divertente, c'ha coraggio, mi faceva notare un collega che sostanzialmente la squadra di oggi era quella che ha vinto il campionato di Serie B, cioè che è stata promossa l'anno scorso, quindi è cambiato il manico, ma mi pare che Ferrara abbia portato una ventata di autostima in tutto il gruppo, perché la Sampdoria se l'è giocata tranquillamente. Se Gastaldello, prendendo lezione dal suo maestro allenatore, si fosse alzato di un passo, non sarebbe stato rigore, ammesso che fosse rigore, non era calcio di rigore, però lo abbiamo detto prima con Graziano Cesari a velocità normale, onestamente tutti abbiamo detto che era calcio di rigore. No, ma poi guarda, poi è giusto che ne discutiamo, perché il rigore non c'era, però io l'ho visto 3 volte la moviola e ancora non so se è sulla riga, un passo avanti, un passo indietro, perché quando c'è un episodio così, di che cosa stiamo a parlare? L'arbitro ha deciso e va bene, nel senso che non è un errore, ecco. Poi uno può essere stato un fenomeno nel vedere giusto o non aver sbagliato, ma insomma non si può parlare di errore. E poi credimi che in campo nessuno ha protestato, perché ripeto, la dinamica a velocità normale dava la sensazione del rigore. Invece bastava che Gastaldello si alzasse di un passo, sarebbe stato espulso perché era già ammonito, ma non avrebbe concesso il rigore agli avversari. E ti dico che forse era una partita che alla fine poteva anche finire 0-0 e non avrebbe spostato la valutazione complessiva né sul Napoli né sulla Sampdoria. Però alla fine Napoli vince e ora abbiamo una bella storia. Perché abbiamo un campionato e temevamo di non averlo, vista anche la Juventus di ieri sera e non solo. Esatto, e poi recuperiamo la Lazio. Cioè è un campionato che secondo me non avrà padroni, perché la squadra che comunque resta la più forte, la Juventus, abbiamo visto che già soffre dell'effetto Champions, perché la Juventus poteva perdere a Genova, poteva perdere a Firenze, quindi non partite di altissimo livello assoluto, proprio perché per motivi diversi era già con la testa o dopo la Champions o aspettando la Champions o aspettando le partite. Penso che sarà un campionato divertente. Sarà più divertente di quanto pensassimo e temessimo. Grazie a Luca Calamai. Ciao a tutti. Grazie Luca Calamai, Gazzetta dello Sport. Intanto ci scrive un tifoso romanista avvelenato, così si firma, non si possono più sostenere Baldini e Sabatini, dovrebbero dimettersi. Prima del GR, vediamo se riusciamo a cogliere una battuta di Miccoli, eroe di giornata con una tripletta, tra l'altro con un gol straordinario al volo da metà campo. Miccoli. Avevamo veramente tanto bisogno di 3 punti, non vincevamo da tantissimo tempo, e al di là dei gol, poi comunque sono contento della prestazione, quindi siamo sulla buona strada. Abbiamo perso due trasferte che non meritavamo e oggi abbiamo fatto veramente una grande partita, secondo me. Questo Miccoli, per lui tripletta, un gol straordinario. Se non l'avete ancora visto, andate a casa a vederlo. Buon pomeriggio Roberto Donadoni. Buon pomeriggio. Roberto, buonasera, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Io ricordo rapidamente per gli amici da casa i nostri contatti: 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per i messaggi, oppure su Facebook A Tempo di Sport, la nostra pagina, o ancora su Twitter @CapuanoGio. Roberto Donadoni, che ieri sera ha fermato il risveglio del Milan, almeno così titola oggi la Gazzetta dello Sport. 1-1 è stato, scrivono oggi i giornali, il miglior secondo tempo del Milan. Ieri, Roberto, hai detto: sono un po' arrabbiato perché il risultato non mi va giù. Hai cambiato idea questa mattina, questo pomeriggio o no? Detto così magari è un po' esagerato, non sono arrabbiato, sono dispiaciuto, perché secondo me era una partita che potevamo anche vincere. È chiaro che il Milan era in vantaggio e quindi potrebbe fare lo stesso ragionamento, però credo che per quello che ha espresso anche il Parma in campo ci poteva stare, insomma. È comunque un complimento, considerato che tutti giudicano il secondo tempo di ieri del Milan il migliore della stagione. Essere comunque riusciti a risollevare una partita che si era messa male fa certamente merito a una squadra che non è partita benissimo, ma che piano piano sta ingranando. Beh, quando ci si misura contro queste grandi realtà è sicuramente una soddisfazione è riuscire soprattutto a rimontare un risultato. Credo che sia sicuramente importante. Noi abbiamo incontrato già delle squadre che in campionato vengono titolate come pretendenti a vincere, e abbiamo capito che possiamo giocarcela con tutti. Sì, non siete stati fortunatissimi col calendario, avete già giocato con la Juventus, con il Napoli, con la Fiorentina, col Milan, che sarà anche in difficoltà, ma resta comunque una squadra di un altro livello rispetto al Parma. Da questo punto di vista, i vostri 6 punti probabilmente pesano più di quello che è il semplice conto aritmetico. Sì, io credo che questo sia un ragionamento che ci sta. Però poi bisogna sempre comunque fare i conti con quella che è una classifica, e sappiamo che abbiamo incontrato squadre importanti, quindi non è facile raccimolare punti. Adesso dovremmo mantenere lo stesso tipo di concentrazione, lo stesso tipo di attitudine per puntare a fare punti contro le squadre che sono più o meno di pari livello, e quindi sarà una lotta dura da qui in avanti, non dobbiamo mollare mai nulla, insomma. Ti giro una domanda che ci hanno fatto su Facebook da casa. Oggi è la giornata dei giovani, degli allenatori giovani. Questa sera ci sarà Montella contro Stramaccioni. Abbiamo visto comunque una bellissima Sampdoria di Ferrara, anche se battuta dal Napoli. Chiede Giancarlo: qual è il giovane con più classe che hai nel Parma? So che è sempre difficile fare un singolo nome, però proviamo a capire che cosa conviene guardare con attenzione in quel mazzo che hai. Ma abbiamo preso dei giocatori interessanti, giovani e interessanti, quindi contiamo di, come dire, di allevarli e di portarli poi al grande pubblico. Non è facile, però io direi che c'è un buon materiale, giocatori come Belfodil, lo stesso Pavone, anche se ha ancora necessità e bisogno di tempo, però insomma sono giocatori che sicuramente cresceranno e che faranno parlare di sé. Come hai visto il Milan invece? Il tuo Milan? Insomma, io credo che ci vuole equilibrio in tutte le cose, no? Si passa dall'essere morti e sepolti a poi essere rinati improvvisamente. Io credo che il Milan, i problemi che il Milan ha avuto li sanno più o meno tutti, e bisogna solo dargli tempo di lavorare, insomma. Non ti leggo, ma io credo lo immagini, i messaggi dei tifosi del Milan rivolti a te, il grandissimo rimpianto per quello che è stato e anche per quello che sei stato tu per il Milan. È un compito difficile quello di Allegri. Vorrei un tuo giudizio da allenatore, quindi da collega. Probabilmente non gli ha fatto bene aver sulle spalle alla vigilia di questa stagione la scimmia di alcuni giudizi sul valore di questa rosa. Gagliani addirittura aveva detto: questa è una squadra, il signor Allegri lo sappia, che deve competere per il campionato. Forse sarebbe stato più semplice se fosse stato tutto chiaro sin dall'inizio. Ma sappiamo come funzionano le cose, spesso e volentieri anche da parte della critica si è bravi a montare delle situazioni che poi lungo andare complicano la vita a noi allenatori, quindi io credo che non si tratta di chiarezza. Il Milan ha preso delle decisioni, sappiamo che il Milan ha fatto in tutti questi anni operazioni importanti e quindi ha speso tanti soldi. Adesso è un momento un po' più difficile, sta interpretando una politica differente e bisogna dargli tempo di lavorare. Politica tra l'altro legittima, considerate, Roberto, le condizioni in cui è messo dal punto di vista economico il calcio italiano, non esatto, solo. Esatto. Ti rubo ancora un minuto. A me ha molto colpito ieri, anche se poi è un momento di tensione assolutamente legittimo alla fine di una partita tra l'altro non andata benissimo, la reazione ieri sera di Robinho con Ambrosini, che è forse rimasto l'ultimo senatore nello spogliatoio del Milan. La domanda che voglio farti è questa: tu sei passato in quello spogliatoio quando era pieno di esperienza, di carisma, forse al di là dell'indebolimento tecnico al Milan in questo momento stanno mancando dei punti di riferimento dentro il gruppo, anche soltanto a livello proprio di peso all'interno dello spogliatoio, sei d'accordo? Ma i giocatori cambiano, poi dopo a volte ci si deve anche confrontare con quello che è il carattere di determinati giocatori, quindi a volte anche qualche screzio può capitare, però io credo che comunque il Milan abbia veramente tutte le carte in regola per potersela giocare e poter combattere. Sì, tu lo vedi comunque che possa arrivare vicino, io diciamo, al vertice. Lottare per le prime posizioni. È chiaro che adesso è un momento complicato e non facile, però insomma, diamogli il tempo. Forse rispetto al passato ci vorrà un po' più di tempo, un po' più di pazienza nel saper leggere questa situazione, però è anche la base, il fondamento assolutamente fondamentale per poter ripartire, cioè non avere la fretta di tornare a quelli che si è stati, che in esatto, questo momento non esatto, si può essere. Esatto. Ma la fretta non ce l'hanno, la fretta gliela mettono, bisogna un attimino, come dire, avere un po' di pazienza. Io credo che Allegri in questi 3 anni ha fatto soltanto un primo posto, un secondo posto in questi 2 anni, questo è il terzo anno. Insomma, mi sembra una cosa da poco. Sì, i famosi 162 punti di cui ogni tanto ha ragione parla, per difendere infatti, il suo lavoro, anche se infatti, poi l'esperienza passata. Io ricordo Ancelotti che faceva gli stessi discorsi e usava le stesse argomentazioni dopo 2 anni alla Juventus per vincere, dovuto andare da qualche altra parte, però... Insomma, il giudizio anche su Allegri, così come fu allora per Ancelotti, che veniva etichettato come allenatore perdente, probabilmente va rimandato di qualche stagione, Roberto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci vuole anche, ripeto, nei giudizi un po' più di equilibrio, e credo che questo sia un aspetto fondamentale. Va bene. Ti ringrazio Roberto, grazie, ti ringrazio e ti lascio con i saluti di tantissimi tifosi del Milan che ti ringraziano anche. E io cambio di cuore. Ti ringraziano anche perché ieri hai avuto parole dolci per gli ultra del Milan presenti a Parma che ti hanno dedicato dei cori, e allora in tanti comunque dicono sarebbe bello riaverti a Milano, ma hai ragione tu, sono in 80 che si sono candidati per la panchina del Milan, è inutile aggiungere l'81esimo nome. Direi proprio di sì. Grazie Roberto Donadoni. A voi, buona serata. Grazie a Roberto Donadoni, tecnico del Parma, che ieri ha fermato il Milan. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure su Facebook, la pagina è A Tempo di Sport, su Twitter @ Capuano Joe. Ultimissime da Cagliari, dove Ficcadenti non si è presentato in conferenza stampa ma ha abbandonato lo stadio, dove tra l'altro ci sono 200 tifosi che lo hanno pesantemente contestato. Non ha parlato neanche il presidente Cellino, è andato in sede e sta incontrando i suoi dirigenti, e quindi possibile l'esonero di Ficcadenti, sarebbe la seconda panchina a saltare dall'inizio del campionato dopo quella di Sannino a Palermo. Buon pomeriggio Giovanni Galli. Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao, buon pomeriggio Giovanni, ti abbiamo chiesto di intervenire perché vogliamo anche aprire il dibattito, la discussione su quello che è il posticipo di questa sera tra Inter e Fiorentina, che a questo punto deve designare insieme alla Lazio quale sarà la terza forza di questo campionato. Se l'Inter vince va a 12 con la Lazio, se passa la Fiorentina è un punto sotto a 11, ma evidentemente comunque sarebbe quella di Montella una candidatura fortissima. E comunque la si voglia mettere, Giovanni, è una partita assolutamente da non perdere. Assolutamente sì, anche se credo che appunto visti la partita della Juventus ieri sera, ma lo stesso Napoli oggi, gli altri in questo momento no, devono andare a raccogliere le briciole. È vero sì che ci sono 3 squadre che sono ripartite con dei progetti diversi, cioè le 2 milanesi e la Fiorentina stessa, che ha cambiato tantissimi giocatori e stanno cercando tutti una loro identità. La Fiorentina sembra che in queste prime 5 partite ci sia riuscita più frettolosamente degli altri, forse con meno pressioni di quelle che possono essere appunto di quelle di Milano, però hanno messo insieme una buona squadra e stasera per lei ecco, è un motivo di crescita, insomma, una partita con l'Inter. Non penso, io credo che a questa squadra gli si debba oggi chiedere troppo, gli si deve soltanto chiedere di migliorare sul piano del gioco, sul piano dei risultati, come continuità, e a 10 partite dalla fine decidere quello che può fare da grande. Perché dove può arrivare davvero, perché oggi così dopo 6 partite già a una squadra che ha cambiato così tanto e chiedergli già qualcosa di troppo impegnativo potrebbe essere troppo. Sì, potrebbe essere controproducente. Sì, c'è un entusiasmo a Firenze insospettabile, considerato come era finita la scorsa stagione con tre allenatori, prima Mihajlovic, poi Delio Rossi, poi la chiusura nelle ultime due giornate con Guerini. Ricordiamoci che questo era un gruppo, un ambiente che aveva chiuso la stagione salvandosi alla penultima giornata, con tra l'altro, dopo aver vissuto quella bruttissima scena, ma che era la spia di tensioni interne in spogliatoio, l'aggressione di Delio Rossi agli AIC, con una famiglia della Valle che sembrava allontanarsi dalla Fiorentina, davvero in un'estate è cambiato tutto. È cambiato tutto perché sono cambiati tutti gli interpreti, a partire da chi doveva, dal direttore sportivo, dall'allenatore, dai giocatori. Giocatori che appartengono alla squadra all'anno scorso ce ne sono soltanto due di titolari, tre forse quando gioca gli AIC, perché dell'anno scorso c'è rimasto soltanto Romolo e c'è rimasto soltanto Jovetic, per cui insomma voglio dire hanno cambiato. Ecco quando io dico che questa è una squadra che sta cercando una propria identità e una propria dimensione, e che la partita di stasera deve dare magari delle convinzioni su quelle che può essere questo gruppo, non andargli già a chiedere, capito, che di far subito il risultato, di mettersi subito in scia Juventus e Napoli, magari di fare per tutto il campionato la corsa con l'obiettivo della Champions League, quindi del terzo posto, o anche solo dell'Europa League. Sarebbe un errore. Questa squadra deve prima di tutto avere la propria identità e sulla propria identità migliorarsi. Però se ancora oggi non sappiamo dove che cosa è questa squadra, stasera abbiamo un test importante, perché l'Inter, anche se a San Siro non ha mai ottenuto risultato pieno, comunque è sempre un test impegnativo, e stasera potremo già vedere un'ulteriore crescita. E fa bene Montella quando parla di Fiorentina, dice: io da Parma, Juventus, avevo bisogno di avere dei segnali, se poi arrivano anche dei risultati meglio. Sono arrivati soltanto due pareggi, però c'è stata la prestazione, l'intensità del lavoro, per cui sono stati segnali importanti. Stasera ci dovrebbe essere un ulteriore miglioramento sotto questo punto di vista. Se arrivano i tre punti, felici; se ne arriva uno soltanto, deve essere la prestazione e l'intensità del lavoro più ancora e prima ancora del risultato. Il risultato che invece penso sia fondamentale per l'Inter, sì, perché Stramaccioni è tanto simpatico, la sua luna di miele con tutto l'ambiente non è ancora finita, e Moratti lo sta comunque molto difendendo anche in queste settimane difficili, però è anche vero che se questa sera l'Inter vince ha la possibilità di agganciarsi a un treno che gli consente una stagione comunque importante. Se dovesse non vincere si rassegna un derby, quello di domenica prossima, che davvero diventa il derby tra due squadre deluse e che forse non hanno davanti in questa stagione gli orizzonti che si aspettavano, ma anche senza parlare di scudetto. Io credo che Inter e Milan non possano rassegnarsi in autunno a essere fuori dalla corsa per il terzo, per il quarto posto. Sì, qualche errore è stato commesso, per esempio sulla sponda Milan. L'Inter ha fatto una scelta, ha tenuto però comunque sempre dei giocatori che hanno una storia importante alle spalle, perciò diciamo che sul piano di gruppo della squadra forse l'Inter ha qualcosa in più del Milan, però lo deve dimostrare. Ancora oggi è alla ricerca anche lei di una quadratura. Vedi, si è cambiati dalla difesa a 4, una difesa a 3, una punta, due punte, una punta e una mezza punta, per cui ancora Stramaccioni sta lavorando su questo gruppo, e stasera non può fallire. Ecco, forse per l'Inter stasera è più importante il risultato del gioco. Sì, stasera l'Inter deve assolutamente tirare fuori da questa partita i tre punti per tanti motivi, sì, anche perché domenica c'è il derby, e non vincere questa sera, poi il derby è una partita che comunque riserva mille incognite, tu la conosci molto bene, potrebbe consegnare le due settimane di sosta un autentico calvario per Stramaccioni. Io non so nemmeno se abbia il peso, le spalle, l'esperienza, anzi l'esperienza certamente non ce l'ha, eventualmente per sopportarla, una sosta sotto i riflettori della critica. Sì, sarà un, infatti, se non dovesse essere così, il derby di domenica prossima a uno dei due allenatori regalerà 15 giorni decisamente difficili. Decisamente pesanti. Pesanti, sì. Come finisce questa sera? Un pronostico secco, se hai voglia di sbilanciarti? Ma sono tanto curioso proprio di vedere l'Inter all'opera a San Siro con l'impegno di dover fare il risultato e con l'impegno di dover fare la partita, però dall'altra parte c'è una Fiorentina che gioca a calcio. Questo potrebbe essere, sembra strano, un vantaggio per l'Inter, perché l'Inter gioca molto sugli avversari. Quando deve impostare il gioco fa fatica, quando invece può giocare sugli avversari può avere magari dei vantaggi. Questo per la Fiorentina è vedere questo ulteriore passaggio ancora in alto. Sono in attesa appunto delle formazioni ufficiali, perché insomma si parla di un Matias Fernandes dietro a Jovetic, che potrebbe essere una mossa che potrebbe creare parecchie difficoltà, qualche problema in più a Stramaccione, i difensori dell'Inter, sì. Inter che non è certamente parsa blindata in difesa in questo inizio di stagione. Grazie a Giovanni Galli. Salve, grazie a voi, arrivederci. Grazie a Giovanni Galli, abbiamo parlato di Inter-Fiorentina di questa sera. Dopo la pausa per la pubblicità parleremo di ciclismo, perché avremo ospite il CT della Nazionale Paolo Bettini, che oggi è a Milano per la presentazione del Giro 2013, quindi se avete domande fatele, chiamateci 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure Facebook a Tempo di Sport, o ancora su Twitter @ Capuano Joe. Si fanno già le prime ipotesi: se dovesse saltare Ficcadenti, la pista che Cellino sta seguendo in questi minuti sarebbe quella di Diego Lopez, storico capitano del Cagliari che ora lavora nel settore giovanile della società. Quindi potrebbe esserci una soluzione interna, anche se in realtà potrebbero essere contattati in questi minuti degli Orossi, che senza panchina, dopo l'avventura finita male, ne abbiamo parlato anche con Giovanni Galli, alla Fiorentina nella passata stagione, e c'è anche un'ipotesi Edi Reia, però di più difficile realizzazione. Però non è ancora ufficiale l'esonero di Ficcadenti, proprio in questi minuti nella sede del Cagliari Cellino sta ragionando su cosa fare dopo la sconfitta interna 2-1 contro il Pescara, che lascia il Cagliari ultimo in classifica a quota 2. A 2 c'è anche il Siena, che però partiva col fardello di 6 punti di penalizzazione, quindi virtualmente sarebbe a 8 punti. I contatti 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, su Facebook a Tempo di Sport è la pagina. Poi daremo spazio ai commenti da casa sul calcio di rigore del Napoli, perché abbiamo postato il fermo immagine del contatto fra Gastaldello e Hamsik. Dopo faremo una breve rassegna delle decine di messaggi che ci state inviando. Potete scriverci anche su Twitter @CapuanoJoe. Saluto Gennaro da Napoli, buon pomeriggio. Capuano, buonasera a lei. Prego. Volevo fare complimenti per quanto riguarda il merito al rigore del Napoli, che giustamente occhio nudo al momento tutti quanti hanno stabilito e pensato che fosse comunque rigore. Sì, onestamente era davvero difficile trovare molto difficile. Quello spazio che c'è, e quindi è giusto che se ne parli. E poi volevo sapere da lei, però era difficile. Avete osservato con l'amico giornalista che Napoli è diventato molto più cinico, probabilmente proprio perché mancano due figure come quelle di Gargano e Gavezzi, che davano più brio al gioco del Napoli ma erano meno essenziali. E poi io credo, Gennaro, che sia passato un anno e questo sia certamente un gruppo più maturo, e questo si vede. Anche se, ed esprimo un giudizio personale, lo abbiamo fatto prima anche con Luca Calamai della Gazzetta, forse anche Mazzarri deve fare uno scatto a questo punto, perché lo diceva anche Graziano Cesari, rischia di essere penalizzato da questo eccesso di vis polemica che ha spesso con gli arbitri. È o no? Toscano, condivide. È toscano, è sempre stato abbastanza irruento, e poi ahimè, perdonami, un grosso difetto di Mazzarri è che non riesce a cambiare tecnica di gioco durante la partita. Abbiamo perso partite importanti, ahimè ricordo ancora con dispiacere quella di Londra, ricordo ancora quella con la Juventus, con la Lazio della stagione passata, perché se avessi impostato la partita durante la partita in maniera diversa, avrebbe cambiato schema di gioco, probabilmente avremmo potuto ottenere anche altri risultati. Comunque è un Napoli che fa... Sì, è consolidato, d'accordo. È un Napoli che farà certamente gara con la Juventus per lo scudetto. Io credo che questo fosse chiaro già dalla finale di Supercoppa di Pechino, però a maggior ragione oggi, dopo 6 giornate e anche dopo questi segnali, come quello di questo pomeriggio a Genova, è assolutamente evidente. Grazie a Gennaro, buon pomeriggio a Maurizio da Pescara. Buonasera. Buonasera Maurizio, prego. Volevo fare un appunto regolamentare, se prego. Mi permette. Cioè, nel senso, sul rigore ieri fischiato a favore della Juventus, nessuno si è accorto che dopo la respinta di Stekelenburg, il giocatore della Juventus, non mi ricordo che se fosse Marchisio o Matri, era al di là del era in fuorigioco. Il primo tiro è stato respinto da Cattan, poi sul successivo tiro, c'è stato il calcio di rigore. Il calcio di rigore, però lì secondo me il guardalini poi ha provato la rovesciata, non ha applicato il regolamento l'arbitro e ha fischiato il rigore, però secondo me l'errore del guardalini è che se non avesse respinto la prima ribattuta, diciamo, Castana palla, molto probabilmente sarebbe andato al giocatore della Juventus e lì avrebbe dovuto secondo me sbandierare il fuorigioco in quanto Stekelenburg era davanti. È un occhio da falco, Maurizio. Io credo che la dinamica dell'azione, che in realtà è stato un batti e ribatti in un paio di secondi con 3 conclusioni in porta degli attaccanti della Juventus, abbia reso quasi invisibile questo fuorigioco. Però grazie per avercelo segnalato, perché andremo a cercarlo e a guardarlo per vedere se davvero ci sono gli estremi per, fra virgolette, chiamiamolo un errore arbitrale anche in Juventus-Roma di ieri sera, gara peraltro che anche ci fosse l'errore sul gol, su calcio di rigore di Vidal, assolutamente era già indirizzata e che la Juventus ha dominato. Buon pomeriggio, anzi buonasera Paolo Bettini. Buonasera a tutti. Buonasera Paolo Bettini, che oggi era a Milano per la presentazione del Giro 2013, 3.405 chilometri, 21 tappe, si parte il 4 maggio da Napoli, è proprio l'anno di Napoli questo, e si chiude il 26 maggio non a Milano come tradizione ma a Brescia. Paolo Bettini, per un giro che come ti è sembrato a primo giudizio? Ma ha studiato ancora meglio, che sia ben distribuito, ci sono tappe belle distribuite bene, pertanto dovrebbe essere un giro spettacolare, non di attesa, ma già la prima settimana offre diversi spunti per renderlo molto molto frizzante. Sì, speriamo meglio dell'ultimo. Poi ti chiedo anche un po' un bilancio su questa stagione che si è chiusa ieri con il Giro di Lombardia. Onestamente, delle 3 grandi corse a tappe, Giro, Vuelta e Tour, il Giro quest'anno è stato quello un po' più penalizzato a livello spettacolare, di grandi nomi, di protagonisti, di azioni, di storie, di emozioni. È caduta la linea con Paolo Bettini, lo richiamiamo, lo agganciamo subito, era evidentemente in viaggio per tornare nella sua Toscana da Milano, dove oggi all'ora di pranzo ha assistito alla presentazione del Giro 2013, un giro, 21 tappe, abbiamo detto che presenta 3 grandi tappe con salite, si va addirittura in Francia ed è una prima assoluta questa per il Giro d'Italia, perché si va sul Col du Galibier alla 15ª tappa, è l'unico sconfinamento, poi ci sarà quella che forse è la tappa decisiva sulle 3 cime di Lavaredo, che è la penultima tappa. In mezzo però c'è anche una tappa con lo Stelvio e il Gavia nella stessa giornata. Ci sono anche 92 chilometri a cronometro, la più lunga è all'8ª tappa con oltre 55 chilometri. Ci diceva Paolo Bettini, un Giro d'Italia probabilmente ben costruito e che dovrebbe favorire lo spettacolo. Adesso vediamo se riusciamo a ritrovare il collegamento con Paolo Bettini. Eccolo, è di nuovo con noi. Eccoci qui Paolo. Dicevamo, speriamo dal punto di vista spettacolare meglio del Giro di quest'anno. Ma non è stato spettacolare. Diciamo che chi l'ha interpretato ha giocato troppo di attesa e alla fine poi forse la paura di attaccare, di osare, lo ha reso così. Questo è un giro più per scalatori o per cronomen, quello del 2013? Ma ci sono tantissime montagne anche importanti che fanno paura, ma c'è una crono lunghissima con una crono squadre spettacolare ad Ischia, pertanto chi potrà sfruttare sfruttare la dote di Conman, poter mettere tutti da parte e avrà modo di provare a difenderli in Niente, siamo sfortunati con la linea telefonica di Paolo Bettini, proviamo ancora magari a riagganciarlo. Torniamo invece allora un secondo sui messaggi da casa, messaggi che parlano ovviamente molto di calcio e di quello che è stata la giornata di oggi, soprattutto per quanto riguarda il calcio di rigore che ha deciso la sfida di Genova, tra Sampdoria e Napoli. Ci chiedono in tanti di parlare del rigore, io credo che l'abbiamo fatto già a partire dalle 17 con la moviola di Graziano Cesari, però sono in tanti di quelli che scrivono su Facebook, dove noi abbiamo postato il fermo immagine del momento in cui c'è il tocco di Gastaldello sulle caviglie di Hamsik, ebbene sono in tanti che ci stanno scrivendo che a velocità normale questo era assolutamente un rigore che si poteva dare, soltanto con il contributo della moviola e poi si va a vedere che il fallo in realtà avviene all'esterno dell'area di rigore. E in tanti, soprattutto Dimitri, ci invita a parlare del fair play di Gastaldello. Noi lo abbiamo colto in diretta, questo passaggio, il passaggio in cui Gastaldello fa i complimenti a Tagliavento, l'ha fatto anche in diretta nel corso della partita, perché non protesta Gastaldello, ha ribadito poi negli spogliatoi, quella di Tagliavento era una chiamata difficilissima e quindi non c'è nulla da protestare. Per chiudere il discorso invece che riguarda, in attesa di vedere se riusciamo a ritrovare il collegamento con Paolo Bettini, il posticipo di questa sera, andiamo a sentire Stramaccioni sugli obiettivi dell'Inter. Noi l'abbiamo sempre detto, stiamo lavorando per cercare di tornare ai vertici della Serie A. E questo, secondo me, quando sei l'Inter, il tuo obiettivo è necessariamente questo. E non ci siamo mai in questo nascosti, ma allo stesso tempo credo che sia inutile anche... non intelligente parlare di obiettivi alla quinta giornata, soprattutto per una squadra come la nostra che ha cambiato tantissimo. Quindi il mio obiettivo è crescere innanzitutto di partita in partita e ovviamente di pari passo con i risultati, rimanendo il più possibile agganciati comunque al treno della vetta del campionato. E sicuramente domani l'Inter a 9 punti, la Fiorentina a 8, è uno scontro di alta classifica comunque. Questo Stramaccione è la vigilia di Inter-Fiorentina di questa sera. Sentiamo Montella, gli hanno chiesto: firmeresti oggi per la qualificazione in Europa League? Sentiamo cosa ha risposto. Volete far firmare tutto oggi? Sì, ma... qualsiasi cosa. Ma comunque è l'unica. Ma no, ma nel senso, ma no, poi capisco che magari abbiate bisogno dei titoli, però no, perché non lo sai l'andamento, potresti essere contento così come potresti non essere contento. Noi, quello che è stato veramente chiesto dalla città, dalla proprietà, dal presidente, dai direttori sportivi, è che la squadra giocasse a calcio e avesse un'entità. Quindi noi in piccola parte questo risultato abbiamo raggiunto, abbiamo bisogno di continuare e dimostrarlo per 38 partite. Io penso che questa squadra sia stata costruita per questo, sia rispettando le aspettative anche della gente. L'importante è tenerle per 38 partite, poi avere un punto in più, un punto in meno ti comporta a volte grandissime differenze, come abbiamo visto dalle classifiche degli ultimi anni, però non lo puoi decidere e pensare a prescindere. Insomma, oggi non firmo nulla. Questo è Montella che non firma la qualificazione all'Europa League questa sera per la sua Fiorentina. È un test davvero importante. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure su Facebook, la pagina è A Tempo di Sport, o su Twitter @CapuanoJo. Rosella Sensi che dà ragione a Giovanni Cobolli Gigli: io avrei ripreso Montella, dice, invece di Zeman. Ne parliamo ancora dopo la pausa per il traffico. Cercheremo di tornare a parlare con Paolo Bettini del Giro 2013 e del bilancio di questa stagione, e poi vi daremo tutti gli aggiornamenti invece sul basket. Oggi si gioca la prima giornata, ieri l'anticipo con la vittoria di Bologna su Cremona. Da questa sera Radio 24 torna come tradizione a seguire il campionato di basket con Palla Spicchi a partire dalle 20:30. La conduzione sarà di Dario Ricci, che sarà qui con noi per fare il punto sulle partite che sono iniziate alle 18:15. E allora andiamo a sentire Colantuono che sta parlando su Sky Sport. Forse in casa la miglior partita degli ultimi mesi, no? Addirittura di questo inizio del campionato, perché corti, aggressivi, abbiamo creato tante occasioni, non abbiamo concesso nulla a una squadra che comunque davanti è molto pericolosa. e quindi capita. Sono partite che sono difficili da commentare, perché vai a dire che hai fatto una bella gara, ma hai perso 5-1, la gente si mette a ridere. Però in realtà è così. Difficile commentare la sconfitta dell'Atalanta di Colantuono, anche se ci spiegava prima Xavier Iacobelli, Colantuono non rischia assolutamente la sua panchina a differenza di Ficcadenti. In questi minuti a Cagliari si sta decidendo il destino del tecnico, che è a un passo dall'esonero. L'ipotesi per la sua sostituzione è un'ipotesi interna con Diego Lopez, che oggi allena le giovanili del Cagliari, oppure ci potrebbe essere un contatto con Deglio Rossi. Ancora qualche voce dalla giornata di oggi: la Lazio, che in questo momento, in attesa di Inter-Fiorentina, è la terza forza del campionato. E allora sentiamo Petkovic. Non siamo stati sicuramente al 100% brillanti, ma siamo stati abbastanza bravi per tenere questo Siena e per vincere questa partita senza troppe polemiche, senza troppe anche fatiche, perché abbiamo sicuramente giocato bene, creato tanto. Questo era Petkovic. Per chiudere le voci di oggi sentiamo Gilardino, che è uno dei grandi vecchi che oggi si è ritrovato. C'è stata la tripletta di Miccoli e lo abbiamo sentito, c'è stata anche la doppietta di Gilardino. Per lui sono già 5 gol nelle prime 6 giornate con il Bologna in questo campionato. Ho 30 anni, sono nel pieno diciamo della mia condizione, quindi la nazionale è sempre un, per me è un punto di riferimento, è una cosa importante. Però non, l'ho già detto anche in passato, non dipende solo da me, dipende dalle scelte, dipende da tante cose. Questo Gilardino, intanto non riusciamo a ritrovare la linea con Paolo Bettini, che è sotto un autentico diluvio in autostrada, sta tornando da Milano verso la sua Toscana. Oggi c'è stata la presentazione del Giro, abbiamo colto comunque quello che è il giudizio del CT della nazionale italiana su un Giro che dice sarà molto equilibrato e dovrebbe essere certamente più divertente di quello di questa stagione, che è stato, diciamo la verità, abbastanza deludente. Un Giro che sarà probabilmente deciso dalle tre cime di Lavaredo nel penultimo giorno. Io saluto e ringrazio Dario Ricci. Buon pomeriggio Dario, anzi buonasera. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Oggi si torna a parlare di pallacanestro su Radio 24. Finalmente, in realtà non già abbiamo mai smesso venerdì però. Con Palla Spicchi che è ricominciato nella sua versione settimanale con Carlo Genta. Da questa sera ore 20:30 invece tutto sulla prima giornata di questo campionato, che è partito ieri con la vittoria di Bologna a Cremona, ma è finalmente un campionato, Dario, che si annuncia più aperto di quelli che l'hanno preceduto. Assolutamente sì, sulla carta, perché come sapete Siena riparte rinnovata dopo 6 titoli consecutivi e la chiusura di un ciclo storico. Pianigiani, che è andato al Fenerbahce, si è portato dietro Andersen, il ritiro di Stonruk, Lavrinovic e Kaukenas tornati in Lituania, eccetera eccetera. Potenzialmente c'è spazio quindi per salire su quel trono, vedremo se Siena sarà d'accordo, non credo, però Milano e Cantù soprattutto avanzano la loro seria candidatura, Giovanni. Sì, ne parlavamo ieri anche con Luca Chiabotti, che è la prima firma della Gazzetta dello Sport, proprio per la pallacanestro. È un po' l'anno zero per il nostro campionato, che avrà probabilmente tante ombre e poche luci, ad esempio sull'impiego degli italiani molto penalizzati dal nuovo regolamento, e questo è un paradosso dopo l'estate delle 8 vittorie su 8 nel girone di qualificazione per l'Europeo, però che certamente vivrà di un clima di maggior incertezza, che onestamente dopo 6 anni di dominio di Siena serviva anche per rilanciare un po' tutto il movimento. Direi di sì, anche se poi è una Siena rinnovata, ma forse non è detto che sia per forza indebolita, no? Quindi staremo a vedere come i nuovi si inseriranno nel nuovo sistema di gioco e soprattutto quanto saranno pronte le altre, in particolare Milano e Cantù, per salire su questo trono, perché a forza di arrivare secondi ci si fa anche l'abitudine mentalmente, e far quell'ultimo gradino è davvero difficile. Chiaro, tutti i favori del pronostico per Milano, ma aspetto anche parecchio da Varese, anche se oggi sta soffrendo sul campo infuocato di Varese Brindisi. Sotto a Brindisi, poi adesso li diamo i risultati. Sì, sì. Varese sotto 31-19 dopo 12 minuti sul campo di Brindisi, segno che in ogni caso ci sarà grande equilibrio e sarà un campionato da cercare di non perdere o di vincere un po' ovunque. Questa sarà credo un po' la caratteristica di questa stagione. Allora, lo hai anticipato, diamo i risultati perché si gioca. gioca, al di là delle chiacchiere. Bologna, abbiamo detto, ha vinto ieri a Cremona 74-63, siamo al 12° a Brindisi, dove Brindisi è in vantaggio su Varese 31-19, 14° ad Avellino, c'è Montegranaro in vantaggio di 5 punti sulla Sidigas Avellino 27-22, ma partita comunque apertissima, così come è aperta a Pesaro, dove addirittura c'è un pareggio 30-30 al 15° tra Scavolini e Virtus Roma. Milano sta vincendo di 12, 37-25, siamo al 14°, gioca in casa contro Caserta, e poi apertissima anche la partita di Sassari tra Sassari e Angelico Biella, 17°, 35-33. Ricordiamo che in posticipo alle 20:30 ci sarà la sfida tra Reggio Emilia e la Montepaschi Siena, e poi invece Cantù, che si è qualificata brillantemente l'altro ieri per il girone di Eurolega, ha posticipato il suo impegno contro Venezia al 2 ottobre. Quel gradino, Dario, quello che passa tra il secondo posto, per quanto onorevole la vittoria, l'ha scalato proprio Cantù nella finale di Supercoppa. Può essere da questo punto di vista un momento di crescita importante per la formazione di Trinchieri? Assolutamente sì, Cantù si ritrova a inizio campionato con due obiettivi già importanti centrati, la Supercoppa, come sottolinei giustamente, e quindi una coppa in bacheca contro Siena, e quindi vale doppio, e poi la qualificazione all'Eurolega. Ricordiamo, l'anno scorso da esordiente Cantù entrò brillantemente nelle top 16, ma pagò fortemente anche quello sforzo in campionato. Questa volta il roster è stato ampliato, l'atletismo del gruppo è stato ampliato, si ritorna ad un concetto di regia italiana, bocciato l'esperimento Cinciarini, che ora però farà la sua stagione a Reggio Emilia, quindi sembra una Cantù più attrezzata, magari sfortuna dei Brianzoli, nell'anno in cui Milano, invece della solita rivoluzione, ha consolidato almeno negli uomini il gruppo dell'anno scorso. Milano, no? Che quest'anno non può fare a meno di vincere. Direi di no, direi oggi, quest'anno il secondo posto sarebbe difficile da digerire, visto la campagna acquisti fatta con Hendrix, ma anche con Basile, arrivato proprio da Cantù, e tutti gli altri nomi che conosciamo, e soprattutto anche visto le conferme. Perché... E poi soprattutto visto che non c'è Siena, o almeno non c'è la Siena dominante di questi anni. Sì, non c'è la Siena dominante, ma l'area di Grandaire, secondo me, nel Granducato... rimarrà, sia per il passato che pesa, per la mentalità che si è costruita, sia perché 2 anni ancora di sponsorizzazione con la Montepaschi garantiscono una certa solidità. L'opera fatta da Minucci è, direi, una saggia previsione di spesa in vista di tempi sicuramente più difficili, che però non è detto arrivino quest'anno. Non sono mica scarsi. Allora, rapidamente ancora i risultati. Brindisi-Varese 31-25, siamo al 13°. Avellino sotto in casa contro Montegranaro 35-29 al 16°. Scavolini-Virtus-Roma 30-32 al 15°. Milano avanti contro Caserta 37-25 al 14°. Sassari-Biella 35-33 al 17°. Tutti i finali, commenti alle 20:30 con Dario Ricci in palla a spicchi. Sì. Quindi l'appuntamento per tutti gli appassionati di basket è per le 8:30. Noi abbiamo finito. Io saluto e ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi e Paolo Corleoni in regia. Ricordo che lo sport domani torna con tutti i convocati, Carlo Genta, a partire dalle ore 14. Grazie per essere stati con noi.